All right. Well, thank you. Grazie mille. That was awesome. Questo è stato fantastico. And the maple leaf is something that means a lot to us as Canadians. E la foglia del dacero è davvero molto significativa per noi canadesi. That animal is not our national animal. Quell'animale non è il nostro animale nazionale. But it's close. Ma quasi, ci sta quasi. Our national animal is a beaver. Il nostro animale nazionale è una specie di castoro. And it likes to eat the trees that our leaves are on. E a lui piace mangiare proprio quelle foglie che abbiamo visto. But that hockey picture touched my heart. Ma la foto dell'hockey veramente ha toccato il mio cuore. Canadians mostly love hockey. I canadesi, la maggior parte dei canadesi ama l'hockey. It's not even our national sport. E non è neanche il nostro sport nazionale. No, lacrosse is our national sport. What sport? Lacrosse. Lacrosse è il nostro sport nazionale. But we don't feel that way. We feel hockey's our national sport. Ma per noi è l'hockey. L'hockey è il vero sport nazionale. And I actually play hockey 3 times a week. E io gioco a hockey 3 volte alla settimana. Just so I can be in shape enough to come to Italy and speak once in a while. Così che possa mantenermi in forma per venire qui in Italia e parlare. So, anyway, thank you so much for having me here at your conference this weekend and at your church tonight. Ma davvero, grazie di cuore per avermi invitato alla vostra conferenza e adesso anche al vostro incontro di chiesa. I know how much work it takes to pull off an event like this. I really do. E io so quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento così. And we're all just kind of coming in for a landing right now. E adesso stiamo quasi per atterrare. And I just want to caution you and encourage you at the same time. E io voglio mettervi allerta, ma anche incoraggiarvi allo stesso tempo. We've had some amazing times together, have we not? Abbiamo trascorso un tempo meraviglioso insieme, non è vero? And we've had so much information coming into us, we can hardly contain it. E abbiamo ricevuto così tante informazioni che diventa quasi difficile adesso ricordarsele tutte. But the reality is, a lot of you are really, really tired. Ma la realtà dei fatti è che molti di voi sono molto stanchi. And while it has been an amazing conference, e sì, è stata una conferenza meravigliosa. Make sure you take some time now to rest. Ma adesso prendiamoci il tempo di riposarci. Because after we all experience many times when we after we experience a victory. Perché tante volte dopo aver sperimentato e conquistato una vittoria, we celebrate that even in our exhaustion. Noi celebriamo quella vittoria nella nostra stanchezza. In those exhausting weak times in our life. Ed è in quei momenti di stanchezza nella nostra vita. That I want you to guard your heart. Che è importante proteggere e avere cura del proprio cuore. Because a famous preacher once said. Perché un predicatore famoso una volta ha detto. When fatigue or tiredness, when fatigue walks in. Quando la stanchezza si avvicina. Faith walks out. La fede si allontana. Isn't that right? Non è vero? When fatigue walks in, faith walks out. Quando la fatica entra, la fede esce. So be checking up on one another throughout this week, over the next several days. Quindi nei prossimi giorni prendiamoci cura l'uno dell'altra. And I just say that from a pastoral heart. E io ve lo dico con un cuore di pastore. Because I know that the enemy would like to steal away what has been sown into you so richly this weekend. Perché il nemico farà di tutto per derubarci di quello che il Signore ci ha dato in questi giorni. Let's not give him the opportunity to do that. Amen? E quindi non gli diamo l'opportunità di farlo, sì? Amen. Amen. Amen. If I could be anybody in the Bible, se potessi essere un personaggio della Bibbia, I'd probably want to be probabilmente vorrei essere Gideon. Gedeone. Or David. O Davide. Or Joseph. O Giuseppe. You know, and, or some hero in the Bible. O qualcuno di quegli eroi nella Bibbia. And when I get so inspired when I read all these stories. Di quelli che leggi le loro storie e ti senti così ispirato da esse. But if I'm ever like anyone in the Bible. Ma se devo assomigliare effettivamente a qualcuno nella Bibbia, I'm most like this guy who has no name. Sono molto somigliante a questo ragazzo che non ha nome. In 2 Kings chapter 6. Nel secondo libro dei re, capitolo 6. So the Bible says this. E la Bibbia dice questo. One day a group of prophets came to Elisha and told him. Do you want me to read it? Yeah, you go ahead. Right. I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio signore, l'avevo presa in prestito! L'uomo di Dio disse: dove è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. So in verse 3 it says when they arrived at the Jordan they began cutting down trees. Verse 4 actually. Quindi nel verso 4 vediamo che quando giunsero al Giordano si misero a tagliar legna. And when one of them was cutting a tree his axe head flies off the end of the handle. E mentre uno di loro abbatteva l'albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. He said, "Oh, sir." E lui disse: oh, signore. I'm not sure what I would have said that day. Io non sono sicuro di quello che io avrei detto in quel giorno. Oh, but I can tell you that if I'm anybody in the Bible. Ma vi posso dire che se potessi essere qualcuno nella Bibbia, I'm probably most like this guy right here. Allora mi rendo conto di essere molto somigliante a questo ragazzo qui. Have you ever had something embarrassing happen to you? Hai mai avuto un'esperienza, o ti è mai capitato qualcosa di veramente imbarazzante? You know, you may try so hard to just kind of keep it all together. E cerchi di fare di tutto per salvare la situazione. I was in a shopping center one day with a friend having coffee. Un giorno mi trovavo in un supermercato e stavo prendendo un caffè con un mio amico. And it was like an open cafe area. Do you have that in your malls here? No. E c'era questo atrio con diverse caffetterie. My friend was tossing things at me from across the table. E il mio amico mi stava lanciando delle cose dei pezzettini di carta dal tavolo. He was annoying me. E mi stava dando fastidio. Tossing sugar packets at me. Cioè mi stava buttando le bustine del caffè. So I took a ketchup package. Quindi ho preso una bustina di ketchup. Do you have those here? Sì, yes, li abbiamo noi qui. And so I'm threatening to throw this big ketchup package at him. E quindi lì sono che lo minaccio che sto per buttargli la bustina di ketchup. And he holds up a newspaper to block my shot. E lui per non essere colpito alza il giornale. So I thought I would be really smart. E quindi ho pensato di fare qualcosa di davvero intelligente. And I rolled up that ketchup bag in my finger. E ho incominciato a quasi a cartocciare la bustina di ketchup. And I was gonna squeeze it till it came out all over his newspaper. E volevo schizzare il ketchup contro di lui. So I just grabbed it and I began to put pressure on it. E quindi ero lì che spremevo questa bustina. And then all of a sudden it just went. E tutto ad un tratto è uscito fuori. And I looked at the newspaper. E ho guardato il giornale. And it wasn't on the newspaper. E il giornale non era più sopra, non era più su, non era più aperto. And the shopping food court was full of people. E quello spazio era pieno di persone. I am looking around desperately. Quindi mi guardo attorno disperato. To see where the ketchup went. Per rendermi conto dove era andata a finire il ketchup. And I saw this really nice lady sitting in a chair. E ho visto questa signora molto carina giusto al tavolo accanto. She was really well dressed. E lei era vestita davvero elegante. With a white jacket on. Aveva una giacca bianca. And she didn't even know. E lei non sapeva neanche. But there was a big streak of ketchup down the back of her jacket. Ma aveva una macchia enorme di ketchup sulla sua giacca. And she was sitting there with her son-in-law. Ed era lì seduta con suo cognato. Who was no average human being. Che non era un uomo nella media. He was like a Hell's Angel biker. Era tipo uno di quei motociclisti che fanno paura. And he was just huge and bald. Era grande, senza capelli. And neither of them knew where the ketchup had come from. E nessuno dei due si era accorto da dove era venuto questo ketchup. I didn't know really what to do. E quindi non sapevo a quel punto che cosa fare. I thought maybe if I just run out of here. Forse ho pensato forse meglio che me ne vada proprio. You know, I can. Nobody will know. Perché così nessuno sa che cosa è successo. But I got up the courage. Ma mi sono fatto coraggio. I did the right thing and I went over. E quindi ho fatto la cosa giusta e mi sono avvicinato. And this was like 25 years ago. E questo è successo 25 anni fa. And I went and I said, "Ma'am, I am so sorry." E ho detto, "Signora, mi dispiace davvero tanto." She still didn't know what I was talking about. Lei ancora non aveva idea di quello di cui io stavo parlando. And I explained what had happened and she noticed it on the back of her jacket. E quindi le ho spiegato l'accaduto e lei si è accorta della macchia. And I got up all my courage to look at this big guy sitting across from her. E quindi con grande coraggio ho guardato il cognato che era accanto. I thought this was the last speech of my life. E ho pensato queste sono le ultime parole della mia vita. And when I looked at him, e quindi quando l'ho guardato, he had the biggest smile on his face. Lui stava sorridendo. Oh, I was so relieved. E quindi meno male. He thought it was funny. Lui ha pensato che tutta la situazione era divertente. I was totally embarrassed by that. E io ero completamente così imbarazzato. We can relate to this story though in the Bible. E quindi possiamo immedesimarci in questa storia nella Bibbia. Because this guy was a bit of a loser. Perché sapete io ero tipo un perdente. I'll bet this wasn't the first time this has happened to him. E scommetto che questa non era la prima volta che era successo. If it was going to happen to anybody, it was going to happen to him. Se doveva succedere a qualcuno questa cosa, era lui che doveva succedere. So he goes to chop some wood. E quindi lui va, sta tagliando la legna. And everybody around him is probably going, "You are an idiot." E tutti quanti accanto che lo guardano e dicono, "Ma sei proprio un idiota." But what really bothered him was this. Ma quello che davvero gli ha dato fastidio in quel momento è questo. It wasn't his to begin with. E non è il fatto è che quell'ascia non era la sua. It was something that he had borrowed. Era un qualcosa che lui aveva chiesto in prestito. And I think we can all relate to this story because at some time in our life, we've all lost something. E io penso che ci possiamo immedesimare nella storia perché ad un certo punto nella nostra vita tutti quanti abbiamo perso qualcosa. Something that in what I want to share with you tonight, it is something that that wasn't ours originally. Quello che voglio condividere con voi questa sera riguarda qualcosa che non era nostro originariamente. We've heard so many good messages over the weekend. Abbiamo ascoltato così tante belle prediche durante questo weekend. And God has just been reminding us of so many things. Dove Dio ci ha ricordato di così tante cose. But I want to also remind us that tonight. Ma io voglio ricordarci questa sera. You've been entrusted with some things from the Lord. Che delle cose ti sono state affidate dal Signore. And it's possible that you have lost those things along the way. Ed è possibile che tu abbia perso alcune di queste cose nel tempo. Attending a conference doesn't ensure that you got those things back. perché esserci stato a questa conferenza non ci dà la sicurezza di aver riacquisito queste cose perse. But like the man in the scripture, we have to take an action. Ma come l'uomo nella storia dobbiamo attivarci, dobbiamo fare qualcosa. If we're going to reach a generation, se dobbiamo if we're going to reach this generation, se dobbiamo raggiungere questa generazione, we need to make space for God to bring those dreams back into our life. Dobbiamo permettere a Dio di ravvivare quei sogni dentro di noi. And so I want to share with you in the time that we have tonight. E quindi nel tempo che c'è a disposizione stasera voglio condividere con voi some thoughts that I have about dreaming for a generation. Alcuni pensieri che io ho riguardo il raggiungere le generazioni. If I've caught anything from you this weekend, se ho visto, ho imparato qualcosa da voi durante questo weekend, I have sensed that you have a deep desire to reach the next generation. Ho capito che voi avete il desiderio profondo di raggiungere le prossime generazioni. And if we're to go where God wants us to go, e se noi dobbiamo andare dove Dio vuole che noi andiamo, it's going to require for us to have a deeper hunger for Him. C'è bisogno che noi abbiamo una fame più profonda di Lui. Because guess what? Perché indovinate cosa? The conference is over. La conferenza è finita. You're not going to have people standing on the stage preaching to you. Non ci saranno persone di fronte a te che predicheranno continuamente. They're not going to be spoon feeding you. Non ti daranno da mangiare continuamente. You're not going to see karaoke carpool. Non vedremo questi video che abbiamo visto, il carpool che abbiamo visto. We had fun on the mountain. Noi ci siamo divertiti sul monte. But now we gotta get to work. Ma adesso dobbiamo metterci al lavoro. We're heading back into the valley now. Perché adesso stiamo ritornando a valle. We're heading back to where we live now. Stiamo ritornando nei posti dove viviamo adesso. And we need to have within us a deeper hunger. E quindi abbiamo bisogno di essere affamati, di una fame più profonda. Let's call it a supernatural hunger. Chiamiamola una fame supernaturale. I preached out in Corrado today. Ho predicato a Corrado stamattina. And then we went for lunch. E poi abbiamo pranzato insieme. Is it lunch here? Yes. Okay. Dinner, lunch. Cena, pranzo, un po' tutto confuso al momento. And we sat down at the table today. E quindi ci siamo seduti a pranzo. And they brought out the food. E quindi ci hanno portato del cibo. If I had lunch in Canada, se mi fossi trovato in Canada a pranzare, we might have one bowl of something. Forse avremmo avuto una pietanza di un qualcosa. We started with a bowl of pasta. Noi abbiamo incominciato qui con un piatto di pasta. Somebody at our table had two bowls of pasta. Qualcuno attorno al tavolo ha mangiato due piatti di pasta. I thought that was all of lunch today. E io gli ho pensato che quello era tutto. And then more food came out. Ma poi c'è stato servito più cibo. There was salad. C'è stata l'insalata. There was chicken. E il pollo. There was potatoes. E le patate. And there was cheese. E formaggio. And there was and then I was really, really full. E alla fine ero veramente molto, molto pieno. I thought it was time to go. Ho pensato, bene, adesso è il tempo di andarcene. Because we had to get back here to preach. Perché dovevamo essere qui a predicare. It wasn't time to go. Ma no, non è il momento di andare ancora. No. So, the grandmother in the house. La nonna nella casa. Brings out a cake. Ci ha portato la torta that she made. Che lei ha fatto. You can't turn down a cake that she made. E come puoi rifiutare la torta che lei ha fatto? Oh, I was already so full. E io ero così già strapieno. So we have a piece of cake. E quindi abbiamo mangiato un pezzo di torta. It was amazing. Ed era buona. And I thought it's time to go. E quindi ho pensato, bene, è arrivato il tempo di andare. No, they brought out a bowl of fruit. No, perché poi è arrivata la frutta. And they're saying, you know, have some fruit. E quindi c'era chi diceva, dai, prendi la frutta, mangia la frutta. Oh, were so full, and then they brought out a bowl of nuts and walnuts. And... e poi sono arrivate le nocelle. And then I'm like, okay, well, I'm looking at the clock. I'm saying, we're looking at each other. We say, we really got to go. E quindi poi stavamo guardando, insomma, l'orologio. Stavamo tutti quanto pensando, ok, veramente ce ne dobbiamo andare. No, because you haven't had your coffee yet. No, perché era il momento del caffè. So we're just a little cup of coffee like that. E quindi una piccola tazzina di caffè. And so strong too, by the way. Così forte, tra l'altro. Drink the coffee. E quindi siamo qui a bere il caffè. And then I'm thinking it's time to go. E poi ho pensato, ok, adesso è tempo di andare. No, it's not time to go. No, non ancora. Because they're not done talking yet. Perché non abbiamo finito le conversazioni ancora. We're still having a conversation. Stiamo ancora parlando. I'm like, I gotta have a conversation with the church tonight. E io clic e sto pensando, devo andare a parlare alla chiesa stasera. But man, we drove back to the hotel. Ma poi ci siamo messi in macchina e siamo ritornati all'hotel. Because we wanted to change before we came to the service. E ci volevamo cambiare prima di venire in chiesa. I could hardly walk into the room. E io potevo a malapena camminare. I was so full. Perché ero così pieno. Then like George and Thomas said, meet downstairs in 5 minutes. I'm e like, quindi what? George e Thomas mi hanno detto, ok, ci vediamo giù tra 5 minuti. E io che cosa? We jump downstairs and we get in a car and we get rushed to the service. E quindi siamo andati giù, ci siamo messi in macchina e siamo venuti qui. I am so full of food right now. E io sono ancora così pieno di cibo adesso. I'm probably not going to eat until I get home in Canada. Probabilmente non mangerò fino a quando non ritorno in Canada. I ate 5 meals at one sitting today. Perché io ho mangiato 5 pranzi tutti in uno. I can't keep up to George and Thomas. They do pretty good here. George e Thomas sono abituati qui. Io non sono come loro. But you know when it comes time to eat. Ma quando è il tempo di mangiare? We don't ignore that for a very long time, do we? Noi non ignoriamo il tempo quando arriva il tempo di mangiare perché abbiamo fame. And why would you not come to the table in Italy? Perché non ti dovresti sedere a tavola qui in Italia? We don't starve our physical bodies. Noi non facciamo sì che i nostri corpi siano affamati. And we cannot starve our spiritual bodies. E allo stesso modo non possiamo permetterci che il nostro spirito abbia troppa fame. You're not going to be fed by a preacher every day, 3 times a day. Noi non riceveremo cibo spirituale tutti i giorni da un predicatore. In Jeremiah 29 it says it really encourages us to have a deeper hunger, and it says if you seek me you will find me. In Geremia 29 c'è un incoraggiamento nell'avere più fame. C'è scritto se tu mi cerchi mi troverai. We need to not be in the supper room but in the upper room within the presence of God. Amen. Non dobbiamo essere giù in cantina, ma dobbiamo essere nella stanza di sopra alla presenza di Dio. That's where we get fed. Ed è lì che troviamo che ci alimentiamo. So get in the habit of feeding yourself. Quindi prendi l'abitudine di mangiare spiritualmente. Psalm 42 says this. Il Salmo 42 dice questo. As the deer pants for the water. Come il cervo anela l'acqua. So my soul longs and thirsts for you, così oh God. Così la mia anima ha sete di te. Signore, that poor deer. Quel povero cervo. Remember him. Ricordiamoci di lui. Because that's you and me. Perché siamo io e te. We need to be like, get that picture in your mind. Ricordiamo questa immagine. Because in a couple of days you're going to be going, oh man, I really liked hearing the word of God. I really liked being taught. Perché tra 2 giorni magari ci ritroveremo a pensare, mamma mia, mi è piaciuto così tanto ascoltare le prediche e ricevere insegnamenti. You need to start teaching yourself. Ma tu devi incominciare ad insegnare a te stesso. It's one thing to go on a food fast. Perché una cosa è digiunare di cibo. But you don't want to go on a word fast. Ma tu non vuoi digiunare della parola. We need to, yeah. Jesus said this. Gesù ha detto questo. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. For they shall be satisfied. Perché loro saranno benedetti e soddisfatti. If we want to see God's dreams revisited, se vogliamo vedere, we need to have a deeper hunger. Se vogliamo vedere i sogni di Dio realizzarsi, dobbiamo avere una fame più profonda. We need to have an unwavering faith. Dobbiamo avere una fede incrollabile. It's possible that we're going to go from this place and we're going to be tested. Ed è molto probabile che attraverseremo delle difficoltà e saremo messi alla prova. But I want you to remember this. Ma io voglio che ci ricordiamo questo. That the Gospel of Mark says this. Che il Vangelo di Marco dice questo. Have faith in God. Abbi fede in Dio. I assure you that you can say to this mountain. E io ti assicuro che puoi dire a questa montagna. May God lift you up and throw you into the sea. Di muoversi e di gettarsi nell'acqua. And your command will be obeyed. E il tuo comando sarà seguito. All that is required is that you really believe. Tutto quello di cui hai bisogno è che tu. And do not doubt in your heart. E che tu creda, che tu non abbia dubbi. Listen to me. Ascoltami. You can pray for anything, and if you believe, tu puoi pregare per qualsiasi cosa e se credi, you will have it. Tu lo riceverai. We need an unwavering faith. Noi abbiamo bisogno di una fede incrollabile. Hebrews asks the question, what is faith? La lettera degli Ebrei ci domanda che cos'è la fede. It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. Ed è la certezza di quello che si spera succederà. But faith involves taking risks. Ma la fede ha bisogno che si prendano e si corrano dei rischi. When I was a teenager, we had a favorite place we loved to go swimming. Quando ero adolescente avevamo un posto preferito dove andavamo a nuotare. And one day when we were there, we looked across the lake. E un giorno eravamo lì e stavamo osservando il lago. And we saw these cliffs that were on the other side of the lake. E abbiamo visto queste pareti di roccia. And I thought it would be awesome if we went over there and maybe we could jump off those cliffs. E ho pensato sarebbe meraviglioso se magari potessimo arrampicarci e tuffarci da quelle pareti. Nobody had ever done it before. Nessuno l'aveva fatto prima d'ora. So we started out and we swam across the bay. Quindi abbiamo incominciato a nuotare e ad approcciarci, ad avvicinarci a queste pareti di rocce. When we got to the other side, we began climbing up this rock face. Arrivati lì, abbiamo incominciato ad arrampicarci. And then when I got up there, I remember walking over to the edge and looking down at the water. E quindi quando siamo arrivati in cima, mi sono avvicinato all'orlo e ho visto l'acqua. And we measured it later, and it was about 45 feet to the water. Ed erano circa 45 piedi, era molto molto alto. Now, when you're sitting down there, 45 feet, when you envision it, doesn't seem high. Quando sei seduto lì e lo guardi dal basso, non ti sembra molto alto. But when you're standing on the cliff, ma quando sei sulla cima, it's a lot higher. E guardi giù e sembra davvero molto più alto. So I was there with my best friend Billy. E quindi ero lì con il mio amico preferito Billy. And Billy could not see without his glasses ever. E Billy non riusciva a vedere senza i suoi occhiali. And he had really thick lenses in his glasses. Perché era miope, aveva le lenti molto doppie degli occhiali. And he had to have a band that held the glasses on his head, okay? E aveva bisogno di un elastico per tenere fermi i suoi occhiali per quanto erano doppi. It was like wearing a bottle on your face. Era come indossare una maschera sulla tua faccia. And so Billy comes and he looks over the cliff with me. E quindi Billy era con me sull'orlo delle scogli. Now I'm a leader. Ora io sono un leader. And leaders know what to do at the right time. E sapete, i leader di solito sanno quello che si deve fare al tempo giusto. And Billy says, "Oh Mike, this is going to be awesome." E quindi Billy mi ha detto: "Mike, questo sarà fantastico." I said, "You know it, man. It is going to be so fun." E io gli ho risposto: "Sì, hai veramente ragione, sarà così divertente." And I said, "Billy, and this is how it's going to work." E gli ho detto: "Billy, allora adesso facciamo così. You're going to go off first." Tu ti tuffi prima. "And then I'm going to come right behind you, man." E io ti seguo a ruota. And he's like, "Oh no." E lui dice: no. "No, you've lied to me so many times." No, tu mi hai mentito così tante volte. I said, "No, Billy, seriously, you need to go." No, Billy, veramente, devi andare per prima. I go, people are gonna find out that you were too chicken to go. Perché le persone poi verranno a sapere che hai avuto paura. And I'm gonna be the one to tell them. E sono io quello che glielo dirà. He wouldn't go. Ma lui non si è convinto. And so we argued back and forth for about 20 minutes. E quindi per 20 minuti eravamo lì quasi a litigare su questo. We're wasting good time to go swimming. Stavamo perdendo del tempo che piuttosto avremmo potuto investire nuotando. So without telling Billy. Quindi senza dirlo a Billy. My heart was beating. Il mio cuore batteva all'impazzata. I said, "All right, fine, I'll go." E ho detto: "Ok, vado io per prima." And so I talked myself. I've talked myself into going off the cliff. E quindi mi sono costretto a buttarmi da quella parete. And I have you ever tried to? Have you ever talked yourself into something? Vi è mai capitato di parlare a voi stessi e di costringervi a fare qualcosa? I worked it through in my mind. E lì ero lì che pensavo. I'm gonna run. Ha detto: "Ok, faccio una corsa. I'm gonna jump, e poi salterò. And I'm gonna splash. E poi mi ritroverò nell'acqua." So run, una panciata. Jump, splash. Quindi corro, salto e mi butto in acqua. So I got back as far as I could. Quindi ho indietreggiato quanto più potevo. And then I just went for it. E ho rischiato, sono andato. I'm like, "I'm not going to let him ruin this moment." Ha detto: no, non permetterò a Billy di rovinarmi questo momento. And I went for it. E quindi ho incominciato a correre. And I jumped off that cliff. E ho saltato. And have you ever regretted a decision the moment you made it? E vi siete mai pentiti di una decisione nel momento in cui l'avete presa? I was in the air. And I'm like Mr. Cool and all that stuff, right? Io lì ero in aria, io cercavo di essere coraggioso. Not at this point. I wasn't cool anymore. Ma a quel punto non ero più così tanto coraggioso. I was terrified. Ero terrorizzato. And I jumped out into the air. E quindi ero lì che ho saltato. And instead of jump into the water like this. Invece di buttarmi così in questa posizione, I was doing the bicycle all the way down. Era come se fossi su una bicicletta mentre ero in aria. And my arms are flailing everywhere. E muovevo così gambe, braccia dappertutto. I would have got no points from the judges. Sorry. For form, if I was an Olympian. Se fosse stata una gara, avrei preso zero punti dai giudici. I hit the water so hard. E ho colpito l'acqua così duramente. The problem is I had my arms. E il problema è che avevo le mie braccia così. And that little fatty part underneath your arm. E questa parte un po' cicciottella del vostro braccio. It really hurts. Lì ha fatto davvero male. I hit that water so hard it just went just smack. Mi sono schiantato sull'acqua. And I discovered something. E ho scoperto una cosa interessante. I discovered that you can actually hear underwater. Ho scoperto che tu puoi sentire sotto l'acqua. Because I could hear myself screaming underwater. Perché io potevo sentire me stesso gridare sotto l'acqua. And I did hit it pretty hard. Sì, è stato mi sono schiantato contro l'acqua, ha fatto male. Oh man, I was wondering where my swim shorts were. And e mi sono domandato dove il mio costume fosse andato a finire ad un certo punto. But I was under the water. Ma lì ero, sotto l'acqua. And I'm in pain. E avevo dolori dappertutto. And I'm starting to swim up to the surface. E quindi ero lì che cercavo di ritornare a galla. And my face is grimacing. E avevo dolore, la mia faccia era tutta in tensione. But I know Billy's up there. Ma sapevo che Billy era sopra. And he's going to be looking over that cliff. E lui stava guardando. I'm not going to give him the satisfaction of knowing how terrified and in how much that actually hurt. E quindi io non gli volevo dare la soddisfazione di fargli vedere quanto terrorizzato ero. So when I came out of the water, I just kind of emerged out of the water with a grimace on my face, but then as soon as I came out of the water, I had this big smile. E quindi non appena ho raggiunto la superficie, l'espressione del mio volto è cambiata istantaneamente da essere in tensione ad un sorriso. And I'm looking up at Billy. E quindi così che guardo Billy. And he's looking down at me with his glasses on. E lui con i suoi occhiali doppi che mi sta guardando dallo scoglio. He's like, "How was it?" E mi chiede, "Com'è andata?" I said, "It was awesome." E io, "È stato fantastico." Come on, man, you gotta try Vieni it. Anche tu, Billy. He didn't even think about it. Ma lui non ci ha neanche pensato. He just jumped off the cliff. Si è buttato direttamente. But he was so nervous about seeing where he was going. Ma era così nervoso perché voleva vedere dove sarebbe andato a finire. He didn't jump like a human. Non ha saltato come un umano. He jumped like a cat. Ma ha saltato come un gatto. I'm watching him fall to. And I'm laughing at him, like. E io lì che sono giù che lo guardo, mi sto scompisciando dalle risate. And then I realize he's going to land on me. Poi mi sono resa conto che stava per cadere su di me. So I push myself away at the last minute. E quindi all'ultimo momento mi sono spostato. And Billy hits the water. E così anche Billy right si schianta chest. Sull'acqua. Oh, I discovered something else that moment. E lì ho scoperto un'altra cosa. That you can drown if you laugh hysterically while in deep water. Che tu rischi di affogare se ti ritrovi a ridere così forte quando sei in acqua. That was so amazing. È stato fantastico. Do you know what? When I went off that cliff. Sapete quando mi sono tuffato da quella parete? That up to that point in my life was the scariest thing I had ever done. A quel tempo, quella è stata la cosa più paurosa, spaventosa che ho fatto. But at the same time, ma allo stesso tempo, it was the most exciting, thrilling, amazing experience I had ever had. È stata l'esperienza più esaltante, più emozionante, più fantastica che io abbia mai potuto avere. And God is calling you and I to have this unwavering faith. E Gesù Dio ci sta chiamando ad avere questa fede incrollabile. And he's been calling you to it's time to step out. E lui ti sta dicendo è tempo di superarti, di fare qualcosa di più. I promise you there will be times when you think this is the worst decision of your life. E vi garantisco ci saranno dei momenti nella vostra vita in cui penserete questa è la decisione più sbagliata che abbia mai preso. But it's also going to be the most incredible experience of your life. Ma allo stesso tempo sarà l'esperienza più grandiosa della vostra vita. We need some people to step out today. Perché abbiamo bisogno di persone. We need to have a deeper hunger. Che corrino il rischio, che abbiano più fame. We need an unwavering faith. Abbiamo bisogno di una fede incrollabile. And we need supernatural vision. E abbiamo bisogno di una visione supernaturale. Helen Keller, who was blind, Keller che era cieco, was asked by somebody, a lui le è stato chiesto, "Is there anything worse than being blind?" C'è qualcosa di più brutto dell'essere cieco? She said, "Yes, it's being able to physically see but having no vision for your life." E lei ha detto sì, è peggio poter vedere ma non avere degli occhi spirituali. And in 2 Kings chapter 6, as we read further, è in 2 Re al capitolo 6, quando leggiamo più in avanti nella storia, that the king of Aram was at war with Israel. che il re era in battaglia con Israele. And he had heard about the miracles that Elisha was doing. E lui aveva sentito dei miracoli che Elia stava facendo. He planned to attack Israel, and he planned to kidnap Elisha because he wanted to have the prophet in his camp. Quindi lui pianifica di andare in guerra contro Israele e di rapire Elia perché voleva avere lui il profeta. And so he sent his soldiers out to surround Elisha where he was camping. E quindi manda i suoi soldati a circondare Elijah nel posto dove lui stava accampato. And era accampato. Elijah was there with his servant that day. E Elia era lì con i suoi servi quel giorno. And the Bible says that the servant went out of the tent. E la Bibbia dice che i servi andarono alla tenda. He said, when the servant went out of the tent, he saw there were troops and horses and chariots everywhere. Quando i servi uscirono dalla tenda, si resero conto che c'erano delle truppe e dei carri. And he goes, Master, what are we going to do? E hanno chiesto, Maestro, che cosa faremo? And Elisha said, don't be afraid. Ed Elia gli risponde, non abbiate paura. He said, there are more with us than there are with them. Ci sono molti di più dalla nostra parte di quanti ce ne sono contro. Have you ever been an intern for a leader with a big vision? Hai mai lavorato con un leader che ha una grande visione? Have you ever served under somebody like that? Hai mai servito con qualcuno che ha una grande visione? That's what this guy was, his experience was. Questo è quello che questi ragazzi hanno sperimentato. And he's like, I can just see this volunteer going out after Elisha had told them that there were more with him them than there are with the enemy. E io mi posso immaginare questi volontari dopo aver parlato con Elijah, dopo aver sentito che Elijah ha detto no, ce ne sono più dalla nostra parte che contro di noi. If I was that guy, I'd be going out and I'd be counting. Se io fossi stato quel ragazzo, sarei uscito dopo aver sentito Elia e mi sarei messo a contare. And I'd be going like, 1,000, 2,000, 3,000. E sarei stato che 1,000, 2,000, 3,000. I'd run back in the tent and I'd go 1, 2. E sarei andato di nuovo nella tenda e avrei contato 1, 2. Logically, I would say, no, there are more with them than there are with us. Logicamente avrei detto no, no, ce ne sono più contro di noi di quanti siamo noi. But Elisha then prayed this prayer. Ma Elia allora ha pregato questa preghiera. He said, Lord, open his eyes that he might see. E ha detto, Signore, apri i suoi occhi che lui possa vedere. And the servant went out again. E così il servo è andato fuori da capo. And this time when he went out, he still saw all the troops of the king of Aram. E questa volta il servo ha visto di nuovo tutte le truppe, tutti quelli che erano contro. But this time he saw the heavenly armies. They were all over the mountains and the hills, and there were chariots of fire. Ma questa volta lui ha anche visto l'esercito celeste che era tutto attorno ed era molto più numeroso. I'm praying that God would open our eyes that we might see. E io prego che Dio possa aprire i nostri occhi così che noi possiamo vedere. As you head out in these weeks and months and the year ahead. Così quando mentre viviamo i nostri giorni e le nostre settimane e gli anni che ci sono davanti. An obstacle. Every time you come up against something trying to stop you from your dream or vision. Ogni volta che ci troviamo davanti a un ostacolo, ogni volta che ci troviamo davanti a qualcosa che ci ferma dal realizzare i sogni. Let me remind you. Lasciate che io vi ricordi. There are more with you than there are with the enemy. Che ci sono molti più con voi di quanti ce ne sono con il nemico. Society and culture and the world and the devil are trying to crush the church down. La società, il diavolo stanno cercando di schiacciare la chiesa. But Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ma Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno prevaricare. We need to have our eyes opened. Abbiamo bisogno di tenere i nostri occhi aperti. There are more with you than there are with them. Perché ci sono più con te di quanti ce ne sono contro. Our nation in Canada is under attack. La nostra nazione, il Canada, è sotto attacco. from the world system. È attaccata dal sistema mondiale. Your country is under attack. Il nostro paese è sotto attacco. But church, it's time to rise up. Amen. E quindi è arrivato il momento per la chiesa di alzarsi. And remember that God is for us. E di ricordare che Gesù. And if God is for us, no one can be against us. È dalla nostra parte. Se Gesù è per noi, nessuno sarà contro di noi. Oh, open our eyes, Lord, that we may see. Dio, apri i nostri occhi che noi possiamo vedere. We talked about the church this weekend. Noi abbiamo ricevuto degli insegnamenti sulla chiesa durante questo weekend. What is the biggest problem in the church today? Somebody asked. Qual è il problema più grande nella chiesa? Qualcuno ha fatto questa domanda. Is it ignorance or apathy? È ignoranza o è l'ignoranza o l'apatia? And the other man replied. E l'interlocutore ha risposto. He said, I don't know and I don't care. Ha detto non lo so e non mi interessa neanche. You see the power of indifference. Sapete il potere dell'indifferenza. Is what demotivates us as a movement. È quello che ci demotiva e ci ferma dal muoverci. We cannot be indifferent. Noi non possiamo rimanere indifferenti. We cannot be mediocre. Non possiamo rimanere ed essere mediocri. The final thing we need is this. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è questa. We need a relentless passion. Abbiamo bisogno di una passione. I was on holidays just before I came here in Mexico. Di una passione incrollabile, ero in vacanza in Messico. And the girl at the front desk, the concierge. E c'era in the hotel. E la receptionist all'hotel. Yeah. She was there to help us. Lei era lì per aiutarci. And she had a name tag on. E quindi aveva qui l'etichetta con il suo nome. And that way we knew who we were speaking to. In quel modo noi sapevamo con chi stavamo parlando. Everybody had a name tag. Tutti quanti lì avevano il nome. But what was interesting was this. Ma quello che era interessante è questo. Everybody had to name, it said their name and then it said passion. Tutti quanti sulla loro etichetta avevano il loro nome e poi sotto scritto passione. And beside the word passion, they had to say what their passion was. E accanto alla parola passione, loro dovevano dire per che cosa erano appassionati. So, people had a number of things that were written there as their passion. Quindi le persone avevano diverse cose elencate, diverse delle loro passioni elencate. When she was done helping us. E quindi quando lei ci stava lì per aiutare. And I looked at her and I said. L'ho guardata e le ho detto. Is your passion really God? La tua passione è davvero Dio? Because that's what it said. Perché è quello che c'era scritto. Passion. Passione. God. Dio. And she looked at me and said. E lei mi ha guardato e mi ha detto. Said, oh yes. Sì. I go. I said, tell me about that. E io le ho chiesto, ok, raccontami. Because I didn't know if she was like talking about another god or perché non sapevo se lei magari stesse parlando di un altro dio, sapete queste filosofie new age. I go, tell me about that. E quindi le ho chiesto che raccontami. And she just kind of looked around, not embarrassed. Non era imbarazzata, si è guardata attorno. She said, she told me that a couple years ago. E lei mi ha detto che un paio di anni fa. She was searching. Lei era alla ricerca. For something that was real. Per qualcosa che fosse reale. And she was introduced to Jesus. E qualcuno le ha parlato di Gesù. And she said, Jesus is my passion. E mi ha detto Gesù è la mia passione. If we're going to be a church that's moving forward, se noi vogliamo essere una chiesa che va avanti, we need to get a spiritual hunger. Noi dobbiamo avere una fame spirituale. We can't starve ourselves. Non possiamo essere spiritualmente affamati. We need to have an unwavering faith. Dobbiamo avere una fede che non si smuove. We need to have supernatural vision. Dobbiamo avere una visione supernaturale. To see the way that God wants us to see. Per vedere come Dio vuole che noi vediamo. Like the song says, open the eyes of my heart, Lord. Come il salmo dice, apri i miei occhi, Signore. So that we can see what he's seeing. Così che io possa vedere quello che tu vedi. You see, we live by faith. Sapete, noi viviamo per fede. God's vision. Per la visione di Dio. We don't live by our sight. Non viviamo per quello che noi possiamo vedere naturalmente. She said, "Oh man, Jesus, he's everything to me." E lei continuava e mi diceva, "Gesù, Gesù è tutto per me." And I'll tell you what, I was inspired. E io vi confesso, ero ispirato da questa ragazza. What's your passion? Qual è la tua passione? If you wore a sign, a name tag, and you had to identify what your passion was, what would it say? Se avessi qui la tua etichetta con il tuo nome e dovessi dire la tua passione, quale sarebbe la tua passione? Church, we need to have relentless passion. Noi dobbiamo avere una passione profonda, forte. We need a passion for Jesus like we've never had before. Dobbiamo avere una passione per Gesù come non l'abbiamo mai avuta prima d'ora. We need to think more. We need to just meditate and just understand the work of the cross like we've never understood it before. Dobbiamo capire e meditare la parola della croce, che cosa significa la croce. We need a passion for Jesus. Abbiamo bisogno di essere appassionati per Gesù. And to be able to cry out to him. Ed essere in grado di gridare a lui. We need a passion for his church. Abbiamo bisogno di passione per la sua chiesa. We can't start. We're not gonna move forward if all we do is knock down other churches. Non andremo avanti se tutto quello che facciamo è criticare altre chiese. We need to pray for other churches in our communities. Dobbiamo pregare per le chiese nella nostra comunità. The other churches are not your enemy. Le altre chiese non sono i nostri nemici. They're not your competition. Non sono i nostri competitori. You're on the same team. Noi siamo nella stessa squadra. We need to unite and join ourselves together. Dobbiamo essere uniti. And get a passion for the church. E avere passione per la chiesa. And we need a passion for the lost. E abbiamo bisogno di avere passione per i perduti. We need a passion for the lost. Passione per i perduti. Because I can tell you right now. Perché io ve lo posso dire adesso in questo momento. While we have a lot of churches throughout Italy. È vero, noi abbiamo tante chiese in Italia. We don't have enough churches in Italy. Ma noi non abbiamo abbastanza chiese in Italia. While we have people getting saved in Italy. Noi abbiamo persone che danno la loro vita a Gesù. We don't have enough people getting saved in Italy. Ma non abbiamo abbastanza persone che danno la loro vita a Gesù in Italia. Years ago, a very famous ship was launched to cross the Atlantic Sea. Anni fa una nave molto famosa è stata inaugurata nell'Atlantico. Famously known as the Titanic. E lo sapete, è il Titanic. And many people were aboard that boat. E tante persone erano a bordo di quella nave. Many of you probably saw a movie about it at one time. Certamente molti di noi hanno visto il film di questa nave. About Jack and Rose. Jack and Rose. Rose. Rose. Hang on. Tienimi la mano. But they failed to mention. Ma quello che nel film non si vede. That there was another man on that boat. È che c'era un altro uomo su quella nave. Whose name was John Harper. Che il suo nome era John Harper. Harper. He was an evangelist. E lui era un evangelista. And he was going to America to preach at D.L. Moody's church. e lui stava, si stava recando in America per predicare nella chiesa di Moody. And you remember the story, in the middle of the night the ship strikes an iceberg. E la sappiamo la storia, nel bel mezzo della notte la nave si scontra contro un iceberg. I've been in the middle of the ocean on a cruise before. I can't imagine being in the middle of the ocean in the cold winter striking an iceberg. E io non posso immaginare che cosa significa trovarsi nel bel mezzo dell'oceano con una nave che si è appena scontrata contro un iceberg. It ripped a hole in the side of the boat. E ha distrutto lo scontro tutto il lato della nave. And water started pouring in. E quindi l'acqua ha incominciato ad entrare. I was just in Belfast, Ireland. Io ero in Belfast. Yeah, where they have a museum of the Titanic. In Irlanda, dove c'è un museo del Titanic. And the stories of survivors that were recorded there. E ci sono proprio delle testimonianze di chi ha sopravvissuto all'evento. Imagine what that would have been like for you. Immaginatevi come sarebbe stato se ci fossi stato tu. Not enough life jackets on the boat. Not enough life preservers. E non c'erano abbastanza salvagenti, giacche di salvataggio. Not enough boats for all the people that were there. Non abbastanza scialuppe. And the ship is sinking into the ocean. E lì c'è la nave che sta affondando. 2200 people on the ship. 22.000 persone sulla nave. Over 1500 are in the water perishing. Più di 15.000 più di 1500 affogate in acqua. Thermia would set in within minutes of being in the icy cold waters. Il pericolo di ipotermia era imminente appena in acqua. Imagine that after the ship had gone under the ocean, the what you would hear on the water. Immaginatevi dopo che la nave è affondata, siamo lì in acqua, nell'acqua ghiacciata. You would have heard the cries of people that were out there. E siamo lì, immaginatevi, ad ascoltare le grida delle persone che chiedono aiuto. Help me. Aiuto. And when the ship was going down. E lì quando mentre la nave affondava. People were running to the boats trying to get to safety. Le persone in acqua stavano nuotavano incontro per raggiungere le scialuppe per salvarsi. And somebody saw that John Harper had a life jacket in his hand. E qualcuno lì si è accorto che John Harper aveva la giacca di salvataggio in mano. And he gave it to somebody else. E lui l'ha data a qualcun altro, a un'altra persona. And he said, "No, you need to keep it." E questa persona ha detto no, tienila tu. They said the ship is going down, you need to keep this. Ha detto no, guarda che la nave sta affondando, tu hai bisogno di tenere per te questa giacca. John Harper said, I know the ship is going down. Ma Harper ha detto io lo so che la nave sta per affondare. He says, but I'm not worried. Ma io non ho paura, non sono preoccupato. He says, because I'm going up. Perché io sto andando sopra. And when he was in the water. E quindi quando era in acqua. John Harper was in the water with all these people trying to survive. John Harper era in acqua con tutte queste persone che cercavano di sopravvivere. The story is told that he swam over to one person. E la storia narra che lui ha nuotato per andare incontro a una persona. There's no light, as you know. E non c'era luce. And he cried out to the people that were in front of him. E quindi lui ha incominciato a gridare alle persone che erano di fronte a lui. He said, "Excuse me, are you saved?" Domandando, ehi, sei salvo? Sei stato salvato? And they said, "No, we're not saved." E le persone incominciarono a rispondere, no, non siamo salvati. He said, "Then believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved." E lui ha detto, ok, allora credi in Gesù Cristo e tu sarai salvato. And for a few minutes they were separated. E in pochi minuti poi si separarono. But then they came back together. Ma poi si sono ritrovati insieme. Not even knowing it was the same person. Non sapendo neanche che erano le stesse persone. John Harper said again, "Excuse me, are you saved?" E lì John Harper ha chiesto di nuovo, "Ehi, sei salvato?" And they said, "No." E di nuovo le persone hanno risposto no. He said, "Then believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved." E lui ha detto, ok, allora credi nel Signore Gesù e tu sarai salvato. There was a ship that came in and rescued some people. Poi ad un certo punto è arrivata questa scialuppa e ha salvato alcune di queste persone. But most of those people died. Ma la maggior parte di queste persone hanno perso la vita. They lost their lives that day. sono morte quella notte. And at a survivors meeting in Canada. E quelli che hanno che sono sopravvissuti si sono incontrati in Canada. One survivor told the story. E uno di questi sopravvissuti ha raccontato la storia. How he was saved twice that night. Come quella notte lui è stato salvato due volte. He said once by the ship that came back and got them. Ha detto una volta sono stato salvato dalla scialuppa che si è avvicinato. And once by the words of John Harper. E un'altra volta dalle parole di John Harper. Who cared more about the person dying than he did about his own life. Che si è interessato di più delle persone che stavano morendo che della sua stessa vita. Church, we need to get our passion back. Chiesa, noi abbiamo bisogno di riappropriarci della passione. We need our conferences. Noi abbiamo bisogno delle nostre conferenze. And I pray your conference, the next time you have one, I pray it'll be double the size. E io prego che nella nostra prossima conferenza ci possano essere il doppio delle persone. I pray you'll have double the volunteers. Il doppio dei volontari. I pray you'll have double the income. Il doppio dei to be able to pay all the bills. Il doppio delle offerte per pagare tutto quello che c'è da pagare. But if I pray anything for your church today. Ma io prego questa cosa per la chiesa. I pray that you would get a passion for the lost again. Io prego che oggi possiamo riappropriarci della passione per i perduti. That you would be a church that cares about people who are dying. Che noi possiamo essere una chiesa che si prende cura e si preoccupa delle persone che stanno morendo. Maybe you've lost forse hai perso la tua passione. Here and you've lost your hunger. Forse sei qui e hai perso quella fame spirituale. Maybe you've lost your faith and your vision. Forse hai perso la tua fede, la tua visione. But just like the man in 2 Kings. Ma come gli uomini in Secondo Re. He was asked, "Where did you lose this?" Come a quell'uomo è stato chiesto, "Ok, dove hai perso la tua ascia?" And he pointed in the water. E lui ha indicato il posto nell'acqua. And he told him to get a stick and throw it in there. E poi le è stato detto di buttare un pezzo di legno in quello stesso posto. And when the man threw the stick in the water, e quindi quando questo ragazzo ha buttato il pezzo di legno nell'acqua, the axe had floated up. Ecco che l'ascia è venuta a galla. Elisha told him to reach out and grab it. E Elia le ha detto di prenderla e di tirarla fuori dall'acqua. Church, we need to reach out and grab it tonight. Oggi chiesa noi dobbiamo prendere e tirare fuori. Jesus provided a way. Perché Gesù ci ha dato un modo, una via. He carried a big stick. Lui ha portato un grande pezzo di legno. It was a cross. Che è la croce. And when you lay the cross down. E quando tu pensi alla croce. That we have that same resurrected life and power in us. È in quella croce che c'è la potenza della resurrezione. God is saying we need to go back to that place. E Dio sta dicendo noi dobbiamo ritornare lì. And reach out and grab that. E afferrare quella croce. Church, if that's your desire tonight. Chiesa, se è questo il tuo desiderio questa sera. Our time is concluded. Ora abbiamo concluso. But before this evening is out. Ma prima di concludere questa serata. Service, with our final service. Con quello che sarà il nostro ultimo incontro. I pray that you will covenant before the Lord. Io prego che tu possa prendere un impegno con Dio. To reason and ask him. Di chiedergli. To restore your hunger for him. Di restaurare la tua fame per lui. Restore your faith. Di restaurare la tua fede. Restore your vision. Di restaurare la tua visione. And restore your passion. E di restaurare la tua passione. If that's your heart's desire tonight. Se questo è il desiderio del tuo cuore questa sera. I want you to stand to your feet. Perché non ti alzi? And I'm going to pray for you. E io pregherò per te. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. So, Lord, we're out of time. E Gesù, in questo momento. And that's my fault. anche se non abbiamo tantissimo tempo. But we don't need to have an altar call to have a response. Noi non abbiamo bisogno di fare un invito per ricevere una risposta. I know that you've spoken to many hearts here tonight. Io so che tu hai parlato a molti cuori questa sera. Let these words rest upon them. Che queste parole possano rimanere nei nostri cuori. And restore to them. E possano portare restaurazione. The things they have lost. Per quelle cose che abbiamo perso. So that you will be glorified. Così che tu possa essere glorificato. And the church will be the church. E che la chiesa possa essere la chiesa. And we will rise up. Che ci possiamo alzare. And bring glory to your name. E possiamo portare gloria al tuo nome. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. God bless you.